Abbiamo commesso, ancora una volta, un grosso errore, di cui paghiamo ancora le conseguenze. Gravi conseguenze. Di per sé, la vita quotidiana è già abbastanza difficile da vivere, aggravandola di pesi e problemi morali, da cui ogni giorno milioni di persone sono afflitte e dai quali neppure i figli di Dio sono liberi, ecco che la nostra esistenza diventa un carico impossibile da portare. Tanto è vero che alcuni la fanno finita con l'estremo gesto, il suicidio. È mio desiderio, in questo breve scritto, aiutare tutti a vivere meglio, a godere la vita quale Dio ce l'ha data, cioè come mezzo per dare gloria a Dio, come un dono da apprezzare, da partecipare positivamente a chi ci vive accanto. Il nostro prossimo. Ciò che appesantisce la nostra esistenza è la valutazione errata in merito alle difficoltà che incontriamo quotidianamente. La maggioranza delle persone vive con sensi di colpa, ingiustificati, velati o conosciuti che siano. Sensi di colpa che rendono buio anche l'angolo più soleggiato della loro esistenza. Coloro che hanno posto fede in Cristo, Gesù hanno sentito parlare di un Dio che perdona. Eppure anche loro vivono male questo perdono, come se non li riguardasse. Immersi come siamo in una mentalità commerciale dove tutto si conquista, si merita, si paga, sembra che anche vivere il perdono di Dio, sperimentarne cioè la concretezza nella propria quotidianità, sia una cosa da dover acquistare con tenacia. Proprio per questo desidero far comprendere che molte delle difficoltà che incontriamo non sono altre che normali. È normale che già fin dai primi anni di vita il bambino si rivolti verso ciò che è doveroso e intransigente. È normale che nel periodo della pubertà cerchi la propria identità mediante il conflitto con l'autorità dei genitori, come è normale avere dei cambiamenti di umore bruschi. È normale pure in quel periodo avere problemi esistenziali, mettere in discussione principi morali acquisiti dalla società e dai genitori. Per un giovane non vi è nulla di più sano psicologicamente che avere una certa reazione di rifiuto a tutto ciò che non collima con il suo modo di vedere. Come nessuno può conoscere la sua forza, se questa non è messa alla prova, così nessuno può conoscere se stesso, in un mondo e una società, senza opporvisi. Queste normalità formano sia il carattere che le convinzioni. È normale pure che i genitori trovino difficile come comportarsi con i loro figli, anche perché una volta che hanno compreso come trattarli a causa dell'inesorabilità dello scorrere del tempo, essi dovranno già adattarsi ai loro successivi ed ulteriori cambiamenti dovuti alla crescita. È normale per una giovane coppia di sposi avere dei conflitti, perché un matrimonio è l'unione, in vista di un'armonia, fra le esigenze di due diversi corpi e due diverse personalità. Poiché nessuno può arrivare al matrimonio già preparato, a meno che ovviamente non sia già stato sposato, è normale che i primi conflitti siano nell'ambito sessuale. È normale che ci sia un periodo di rodaggio, di adattamento, per trovare quelle espressioni che possano essere gratificanti per tutti e due. È normale che ci siano anche dei conflitti di personalità, perché solo con chi non possiede una personalità non si scontra conflittualmente. Nessuno di noi ha dei contrasti con un albero, a meno che non ci vada a sbattere contro. In quel caso, l'albero mostrerà la sua peculiarità. È normale, quindi per nulla catastrofico, che due sposini, come due sposi più maturi nel loro cammino, incontrino discussioni, contrasti, litigi, frustrazioni, incomprensioni. È normale, nelle discussioni, voler per forza dimostrare la propria ragione, non ammettere che l'altro abbia un'opinione diversa, e davanti ad una proposta del partner offrire immediatamente una controproposta d'opinione completamente opposta. La moglie di Billy Graham, tanto per citare una donna famosa, ha detto, con umorismo durante un raduno per sorelle, che Dio non risponde sempre alle preghiere. Diversamente, lei si sarebbe risposata più volte. È normale, quindi, dopo tanto trasporto e amore, arrivare al punto di desiderare di dividersi, come è altrettanto normale arrivare al punto di pregare che il proprio coniuge muoia, come constatò un figlio di Dio, tutto scandalizzato da questa sua scoperta. È normale pure che l'adattamento si protragga per tutta la loro vita, perché noi tutti siamo esseri in crescita, soggetti a graduali e multiformi cambiamenti nel tempo, quindi con il passare degli anni si creano sempre nuove situazioni. È normale che, appena diventata figlia di Dio, una persona pensi di appartenere ad una chiesa locale, dove vede solo delle persone perfette, piuttosto che realizzare di appartenere alla Chiesa di Cristo composta da persone imperfette. La luce del Vangelo lo ha improvvisamente illuminato, folgorandolo con il suo bagliore al punto di impedirgli di vedere dei difetti nel prossimo. Come il sole, quando illumina nella totalità della sua luce, impedisce di vedere le stelle che sono, in quel momento, compresenti nel cielo. È normale pure che molti figli di Dio in seguito, riaprendo gli occhi, vedano solo i difetti dei loro fratelli in fede. Sono normali questi eccessi, come sono normali gli sbalzi di umore del giovane, nella pubertà. Sono normali pure le difficoltà che incontrano i figli di Dio nell'adattarsi alla nuova vita, perché sono catapultati in un mondo a loro sconosciuto, con le sue regole ed i suoi parametri tutti nuovi. Si trovano a dover ragionare al contrario di ciò che facevano prima, di imparare ad amare il non amabile, a servire, anziché aspettarsi di essere serviti. Ad andare controcorrente, anche quando il loro più grande desiderio è quello di adattarsi al comportamento della maggioranza. È normale anche che nell'ambito dell'assemblea, un figlio di Dio abbia delle preferenze per ciò che riguarda i rapporti fraterni, perché non è possibile avere con tutti la stessa intesa. Gesù stesso aveva un rapporto particolare con 3 dei suoi 12 discepoli e, fra questi, uno addirittura era definito il discepolo che Gesù amava. Quando affermo che è normale, non intendo sostenere che è giusto che va bene così. Il mio desiderio è voler far comprendere quanto sono inutili i sensi di colpa, perché non ci sarà mai possibile avere dei rapporti perfetti, prima con noi stessi e poi con gli altri. Noi siamo delle creature imperfette, limitate, e non possiamo pretendere di avere relazioni perfette. Ci sono tante cose che non sono mancanze, ma semplicemente difficoltà. Questo ce lo dice l'esperienza e ce lo conferma Dio nella sua parola. Il racconto della trasgressione di Adamo, il principio che egli abbia trasmesso la sua natura corrotta e alterata a tutta l'umanità, non è una favola, ma una triste realtà, proprio perché l'uomo ha dimenticato, o vuole dimenticare, il giudizio divino, gli uomini vivono con dei sensi di colpa inesistenti. Dobbiamo accettarci così come siamo, gratuitamente. Il fatto che tutti siamo insanabilmente difettosi non ci deve indurre a ritirare i remi in barca, ad essere demotivati nella ricerca dell'armonia e un rapporto migliore. Questa presa di coscienza dovrebbe costituire il trampolino di lancio verso il giusto atteggiamento verso la vita. Se sono cosciente dei miei limiti e di quelli del prossimo, lavorerò su queste imperfezioni per migliorarle, non per condannarle. Nessuno di noi condanna lo zoppo perché è zoppo. Non serve proprio a nulla, anzi, è deleterio fare del moralismo e imporre dei sensi di colpa perché abbiamo dei rapporti difficili. I nostri rapporti, inizialmente, non possono essere né facili né giusti, come non è possibile per un giovane che apprende un mestiere imparare subito, senza commettere errori. È normale che sbagli. Se nessuno di noi addossa dei sensi di colpa ad un bambino che esprime in mal modo le prime paroline, perché dobbiamo addossarle a chi si affaccia alla vita per la prima volta? Non è forse un'esperienza comune a tutti? Se noi non ricevessimo come offese quelle assolutamente normali incomprensioni o difficoltà dovute alle naturali differenze fra persona e persona, che spesso caratterizzano il rapporto con il prossimo, potremmo vedere in esse la possibilità di istruirci, vicendevolmente e con pazienza ed amore, riguardo al nostro parlare e comportarci col prossimo. In fondo, è questo ciò di cui abbiamo bisogno, essere istruiti. Ricordo ancora vivamente quel vigile che mi fermò nel centro del mio paese riprendendomi a più non posso. Ancora oggi non ho compreso che cosa ho fatto. La sua sgridata e riprensione non è servita proprio a nulla. Egli era più preoccupato di sgridarmi che di farmi capire il mio eventuale errore. E forse questo, l'atteggiamento di molti nei confronti del prossimo. È normale dunque avere difficoltà con il prossimo, ma non è normale che queste difficoltà continuino ad esistere per sempre. È normale che un giovane abbia rapporti conflittuali con i propri genitori, ma non è normale che questi perdurino tutta la vita. È normale che due sposi abbiano dei conflitti nei primi anni della loro convivenza, ma non è normale che il loro matrimonio sia un continuo campo di guerra, che non si cerchi di tenere presente quello che fa piacere all'altro, o si eviti ciò che dispiace. È normale che un figlio di Dio abbia degli eccessi di vedute, ma non lo è più, quando queste si protraggono dopo 10, 20 o 30 anni di nuova vita. Com'è normale cadere quando si fanno i primi passi? Com'è normale sbagliare nel pronunciare le prime parole? Non è normale. Cadere sempre quando si è adulti o sbagliare del continuo nel parlare. Vi è però un'altra normalità che dobbiamo rimarcare. Se è normale sbagliare nell'apprendere, se non è normale sbagliare in modo continuativo, in seguito diventa normale sbagliare ancora, occasionalmente, proprio perché non siamo perfetti. Queste riflessioni sembrano voler spaccare il capello in quattro, ma sono più che opportune di quello che sembra. Per prima cosa, per evitare sensi di colpa, che sono, tra l'altro, sempre tanto negativi quanto non voluti da Dio, dobbiamo ritenere normale qualsiasi difficoltà ed errore in ciò che ci è sconosciuto. In secondo luogo, dobbiamo avere un atteggiamento costruttivo per migliorare ogni rapporto. Infine, dobbiamo lasciare agli altri, come del resto a noi stessi, la possibilità di commettere errori occasionali. Chi non ha questo atteggiamento è, o diventa, disumano. Solo quando si persiste nell'errore non è più normale. E, come dice un vecchio proverbio popolare, errare è umano, perseverare è diabolico. Noi commettiamo un grosso errore e ne paghiamo le conseguenze. Riteniamo le cose normali, anormali, e le cose anormali, normali. Giudichiamo, deploriamo, creiamo dei sensi di colpa per cose che non sono propriamente errori morali e per le quali non occorre pentimento né perdono, perché ciò che fa parte della nostra esistenza, della nostra crescita e natura, come per un bambino che sbaglia nel pronunciare le prime parole, mentre invece tolleriamo ciò che è condannabile solo perché è abitudinario. Così è e così doveva andare, perché se non abbiamo il giusto rapporto con ciò che fa parte della nostra imperfetta esistenza, non possiamo averlo neppure per ciò che è deplorevole. Un modo per mettere a posto le cose ci è e ci sarebbe. Riteniamo la vita normale, con tutte le sue implicazioni e problematiche nella loro naturalezza, accettiamola intessuta di contrasti e contraddizioni, perché in noi albergano mescolati desideri positivi e negativi che creano tensione, conflitti. In seguito, spogliamoci di quel religiosismo così disumano e così tanto lontano dal concetto realmente umano che Dio ha della propria creatura, per arrivare così a comprendere, a tendere la mano a chi si trova in difficoltà con se stesso e con il prossimo. Non mancheranno errori, ma il vero errore sarebbe quello di non fare nulla per non commettere errori. Dio sa che sbagliare è normale. Novembre 2003, Ellero.